in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, per quel che sia riuscito a fare, visto che era un incontro a porte chiuse, i giornali parlano di questa kermesse iniziata ieri a Roma, i cosiddetti stati generali. E, ripeto, per quel che si è riuscito a capire, perché con non poche polemiche su questo aspetto, non era permesso, come si usa dire in gergo giornalistico, accreditarsi, quindi dare il proprio nome, la propria testata e assistere ad alcuni degli incontri, come accade in moltissime di queste kermesse, e è stato solo possibile per i giornalisti o avere delle indiscrezioni o assistere alla breve conferenza stampa che c'è stata alla conclusione di questa prima giornata. Il Sole 24 Ore titola: crisi e riforme, l'Europa, l'Italia, occasione da non sprecare. Questo è il messaggio lanciato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che è intervenuta naturalmente in videoconferenza. Christine Lagarde, presidente della BCE, dice: non perdere l'opportunità. E Conte ha risposto: non sprecheremo un euro, e ha annunciato una riforma fiscale che verrà realizzata anche con queste risorse. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era in un'altra occasione, era impegnato in un incontro sempre via computer con alcuni giovani, ci sono delle foto molto, molto d'impatto, con da una parte il Presidente Mattarella e di fronte a lui questo schermo diviso in tanti piccoli quadratini dei ragazzi in videoconferenza. Sia il presidente Sergio Mattarella che il presidente di Banca Italia Visco hanno detto: ora serve concretezza. Dalla prima pagina vi segnalo anche l'articolo di Simone Filippetti, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, che parla di questo vaccino, perché sapete che il ministro Speranza ha annunciato che l'Italia è direttamente coinvolta sia nella ricerca, perché parte del vaccino al vaccino, alla messa a punto del vaccino sta contribuendo un'azienda di Pomezia, e sia perché l'Italia avrà diritto a alcuni milioni di questi 400 milioni di dosi di questo, ripetiamo ancora, eventuale vaccino che potrebbe essere pronto. L'azienda, la multinazionale coinvolta AstraZeneca, ha cercato di calmare tutti e di dire se appunto poi tutti gli studi da qui a ottobre saranno positivi e sarà veramente possibile produrre delle dosi da usare non su volontari, non in una fase di sperimentazione, ma appunto come vero e proprio vaccino. Il Corriere della Sera, il virgolettato è quello appunto, tutto sommato vale, è lo stesso dal presidente Mattarella e dal presidente di Banca Italia Visco, quindi le virgolette: ora servono atti concreti. Poi in prima pagina anche la foto della statua che è qui a Milano nei giardini pubblici di Porta Venezia. La statua di Indro Montanelli, che ieri è stata di nuovo imbrattata, la prima volta con una pittura rosa e ieri con una vernice rossa, e poi è stata aggiunta la scritta: razzista stupratore. La vicenda credo la conosciate tutti, risale a quando Montanelli, che è morto nel 2001 e a 91 anni, quando Montanelli era molto giovane e ha avuto questa sposa bambina, ancora non si capisce se di anni ne avesse 12 o 14, ma direi che soprattutto a quell'epoca sicuramente si può definire sposa bambina. E oggi poi ve lo leggerò il commento di Gian Giacomo Schiavi: l'oltraggio a Montanelli, vernice e insulti sulla statua. Tutta questa attenzione del Corriere è sicuramente legata al fatto che Montanelli per moltissimi anni lavorò al Corriere, poi se ne andò al Giornale, poi, come forse qualcuno ricorderà, fondò La Voce e chiuse sostanzialmente la sua carriera proprio al Corriere, dove negli ultimi anni curava questa stanza di Montanelli. E nel 2000 una lettrice di 18 anni gli chiese conto di quell'episodio, e lui nel 2000, appunto un anno prima di morire, ancora ricordò quell'episodio. La Repubblica: ecco il piano per il vaccino, quindi La Repubblica punta molto su questa possibilità che appunto, se il vaccino sviluppato a Oxford da questa multinazionale AstraZeneca, ma ripetiamo con la partecipazione di un'azienda di Pomezia, e se appunto il vaccino, tutte le fasi che tutte le sperimentazioni da qui a ottobre avranno successo, potrebbero esserci già 400 milioni di dosi. Poi in prima pagina anche il fatto che avete sentito anche nel GR, lo racconta Federico Rampini, poco più di 15 giorni dalla morte dall'assassinio di George Floyd a Minneapolis, l'afroamericano di 46 anni ucciso da un poliziotto bianco, Derek Chauvin, quindi a meno di 2 settimane viene fuori un altro episodio, ma in realtà ne sono venuti fuori tanti, e la polizia ha ucciso un altro afroamericano, in questo caso era un ragazzo di 27 anni ad Atlanta, e era sì ubriaco, però la polizia gli ha sparato 3 colpi di pistola e lo ha ucciso. Come sempre i 2 editoriali della domenica, quello del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, Villa Panfili, che è la villa vicino alle porte di Roma, una sede ufficiale per le attività del governo, dove si stanno tenendo questi stati generali, quindi Villa Panfili al gran ballo di Conte, mentre Maurizio Molinari si concentra sulla Libia, su quello che sta succedendo in Libia, Erdogan, presidente turco, e Putin, presidente della Russia, verso un patto sulla Libia. Con Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso, che giocando su questo nome dato a questo grande kermesse che è in corso a Villa Panfili, che appunto battezzata Stati Generali, e la copertina dell'Espresso, ignorati generali, i giovani precari, i trentenni che sono costretti ad affrontare la crisi economica post-Covid, gli italiani di seconda generazione che si battono contro discriminazione e razzismo, l'Italia del futuro che non è stata convocata dal governo Conte. Ed ecco, a proposito di Conte, La Stampa: Conte rilancia la ricerca, i precari sono 8 su 10. E poi vi segnalo un articolo di Giuseppe Pignatone, La riforma necessaria, che riguarda la giustizia, perché è una questione, quella della giustizia, da sempre urgente in Italia. Si sta sperimentando da pochi giorni una parte della riforma del processo penale, ci sono però tanti altri temi di cui discutere, a partire naturalmente dagli scandali che hanno coinvolto l'ANM e quindi anche il CSM, e appunto un parere tecnico su come si possa riformare la giustizia. La fotonotizia però viene dal Brasile, perché racconta tutto Emiliano Guanella da San Paolo, perché in Brasile è ormai un'ecatombe, quasi 42.000 persone morte, il paese è al secondo posto dopo gli Stati Uniti per numero di vittime, sapete gli Stati Uniti sono oltre i 110.000 e ha superato il Regno Unito. Il comune di San Paolo, la città più colpita dal Covid, ha iniziato a riesumare i cadaveri più vecchi di 3 anni per fare posto appunto a alle persone vittime del coronavirus. Il Messaggero, anche in questo caso il riferimento diretto è all'appello del Colle. Il Colle 2 punti: servono atti concreti. Anche Visco sprona il governo, il paese ha bisogno di passi avanti. Come fotonotizia, il Messaggero sceglie appunto l'uccisione ad Atlanta questo 27enne, si chiamava Race R. Brooks, si divincola dai poliziotti, cerca di fuggire dopo aver rubato loro il taser e poi viene ucciso. USA ha ucciso un altro nero, un video accusa la polizia. La Gazzetta dello Sport, ve la cito perché ieri c'è stata la seconda semifinale di Coppa Italia e sapete il pareggio e quindi il passaggio dell'Inter-Napoli e passaggio del Napoli alla finale di Coppa Italia con la Juventus. Ringhio in finale, naturalmente Gattuso, e poi molte altre anticipazioni sulle prossime partite che vedremo e le mosse del calciomercato. Insomma, la Gazzetta torna ad avere così fatti concreti di cui occuparsi, cioè le partite giocate, anche se naturalmente lo sappiamo a stadi praticamente vuoti. Avvenire a un'apertura ancora diversa, da una parte la foto che richiama la notizia del vaccino, l'Italia prenota il vaccino anti-Covid, ma l'apertura vera e propria è dedicata al messaggio che ieri Papa Francesco ha diffuso e che sarà poi in occasione lo spunto è la giornata dei poveri, la giornata mondiale dei poveri. È stata scelta la data, quest'anno sarà domenica 15 novembre. Intanto Francesco ha appunto pubblicato il testo del messaggio: coi poveri davvero, messaggio del Papa per la giornata, chi tende le mani e chi invece le chiude, no all'indifferenza, i cristiani sappiano unire la preghiera e la solidarietà. Il Fatto Quotidiano, sì, sugli Stati Generali, con questo titolo: miele dall'Europa, fiele da Visco, Conte sfida la destra. Il Giornale: democrazia sospesa, alla faccia della trasparenza, Conte secreta gli Stati Generali, tratta come servi i giornalisti, l'allarme di Mattarella, così si allontanano i giovani. E poi ci sono anche approfondimenti, ma li trovate anche sul Giornale, sul tema della cassa integrazione, quindi in questo caso un approfondimento che poi trovate a pagina 6 con la foto del presidente dell'INPS Pasquale Tridico, 1 milione senza i soldi dell'INPS, e anche la richiesta che Tridico, che è accusato di aver mentito sui dati della cassa integrazione, si dimetta. Libero: stati fallimentari. Conte ha allestito, Libero la definisce una sfilata di moda, e poi ci sono tre foto sulla prima pagina di Libero che si riferiscono ad altrettante storie. La prima foto è quella di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Renato Farina racconta la vicenda di cui ha dato notizia per primo Nicola Porro, vice direttore del Giornale, sul suo blog, cioè che il Fatto Quotidiano, la società che possiede il Fatto Quotidiano, ha ricevuto un grande prestito garantito dallo Stato, dalla SACE. Sia benvenuto Travaglio tra gli assistiti di Stato, pecunia non olet. E poi la seconda storia la racconta poi Giovanni Sallusti: Tiziano Ferro, testimonial dell'Università La Cattolica, un gay per l'Ateneo dei Preti. E infine Lorenzo Gottardo invece racconta la storia viene definito il genio che ci porterà al vaccino, quindi appunto il tema dei ricercatori italiani che hanno lavorato al vaccino. Ho tempo ancora per le ultime due prime pagine, prima di una breve pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. La Verità: sotto la fuffa Conte prende ordini, a cosa serve la messa in scena degli Stati Generali, mentre il Manifesto titola sull'episodio che abbiamo detto dell'afroamericano ucciso ad Atlanta, aveva 27 anni, serial killer inteso come l'Atlanta Police. Da notare che i due poliziotti responsabili di questa uccisione sono già stati sospesi e si è dimesso immediatamente il capo della polizia di Atlanta. Ora noi ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Rieccoci alla nostra rassegna stampa, ci spostiamo dalle prime pagine alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore, perché a pagina 5 c'è un approfondimento, e qui non si tratta di indiscrezioni ma di provvedimenti molto concreti sul fondo perduto, i finanziamenti a fondo perduto anche ai dipendenti. L'Agenzia delle Entrate spiega che l'esclusione vale per i redditi riconducibili solo a quello status di lavoro. L'apertura: contributo ai soci di società tra professionisti anche se appartengono a categorie che non ne hanno diritto. E poi le dichiarazioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini: a credito sul conto in 10 giorni. L'approfondimento sul vaccino lo trovate a pagina 9, Covid-19, vi dicevo, di Simone Filippetti da Londra, perché questo accordo è stato annunciato dal ministro della Salute Speranza ed è un accordo in primis con Germania, Francia e Olanda. Ma vi insegnalo anche l'intervista di Francesca Cerati a Carlo Rosa, che è amministratore delegato di Diasorin. Sapete che la sentenza del TAR della Lombardia di qualche giorno fa ha annullato l'accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e la multinazionale piemontese sui test sierologici. E dice l'amministratore delegato di Diasorin: questa sentenza è una bara per la ricerca clinica italiana. Il vero penalizzato è lo Stato, l'accordo avrebbe permesso al San Matteo di sostenere con borse di studio i dottorandi. Dalla pagina di Sport e Business del Sole 24 Ore, che viene pubblicata ogni domenica, un approfondimento di Marco Bellinazzo su quanto vale il calcio europeo, però pre-Covid e valeva appunto quasi 29 miliardi. Secondo il report annuale di Deloitte, i cinque principali campionati europei, cioè Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia, hanno fatturato nella stagione scorsa circa 17 miliardi, una crescita del 9% rispetto al 2018. Pandemia e calo di entrate favoriscono ancora di più le società più ricche. La sezione Lifestyle, in edicola come ogni domenica con il Sole 24 Ore, il pezzo principale di Sara Magro, che scrive spesso di turismo per noi anche sul sito, è dedicato all'estate e soprattutto alle case un po' fuori mano, quindi bella e isolata, la rivincita della casa di campagna, dimore, trulli, agriturismi e resort. C'è una vasta offerta per vacanze in famiglia con ritmi di vita rurale. E poi la seconda pagina invece di Enrico Marro, che parla di questa nuova frontiera dei musei che possono usare il digitale. Naturalmente si è rivelato molto utile in questo tempo di lockdown, in cui la maggior parte dei musei nella maggior parte dei paesi erano chiusi. E quindi Enrico Marro ci racconta, nel cuore di Dublino, una emozionante immersione digitale nell'epopea dell'emigrazione irlandese che per attrattività batte Buckingham Palace e il Colosseo, le vite leggendarie raccontate da Epic. Il ministro Speranza, lo abbiamo nominato, ha concesso un'intervista a Monica Guerzoni del Corriere della Sera. Il titolo dell'intervista, pagina 5 del Corriere: grazie a questo patto vinceremo il virus. Nessun rimpasto. Per quanto riguarda le voci appunto di un rimpasto, il governo ha le forze. La fotografia è scattata nel giardino, in questo labirinto verde di Villa Panfili, ministro Speranza con la mascherina e al telefono e durante una pausa appunto degli Stati Generali ai quali ha partecipato. Poi vi segnalo un'intervista al sindaco di Nembro, in provincia di Bergamo, in Valseriana. Naturalmente la questione è quella dell'inchiesta aperta dalla procura di Bergamo per capire se ci siano state delle responsabilità o di chi siano le responsabilità della mancata chiusura con qualche giorno di anticipo rispetto al lockdown di tutta la Lombardia di alcune zone appunto della Valseriana. E ora il sindaco dice: le istituzioni, nessuno mi ha chiamato, ci siamo arrangiati. L'errore principale però, secondo il sindaco, non è stato tanto quello di non istituire zone rosse, ma di riaprire l'ospedale di Alzano Lombardo. Poi vi segnalo il racconto di Fabrizio Ronconi di questo personaggio, Mimmo Parisi, 54 anni, presidente di ANPAL dal febbraio 2019, viene definito il cowboy perché era residente in Mississippi quando è stato chiamato da Luigi Di Maio a fare appunto il presidente dell'ANPAL, un flop completo la sua presidenza. Quindi resta professore di demografia e statistica in Mississippi. Nel 2019 fu chiamato all'ANPAL per fare quella che venne presentata come un'epocale riforma dei centri per l'impiego e l'attuazione del reddito di cittadinanza. Adesso è sotto accusa per i rimborsi spese, per essere andato avanti e indietro dagli Stati Uniti per avere un autista che costa 55.000 euro. E qui in questo articolo, che per chi è interessato si può leggere a pagina 15 del Corriere della Sera, cerca di giustificare queste spese che sono documentate ma che sembrano comunque molto alte. Vi dicevo, e ve lo cito appunto dal Corriere, perché il Corriere è stata, diciamo, l'ultima casa giornalistica di Indro Montanelli, scomparso, lo ripetiamo, nel 2001. La foto, la statua che c'è nei giardini di Porta Venezia è ispirata a una fotografia scattata nel 1940 di Indro Montanelli al lavoro seduto su una sedia che scrive sulla sua macchina, sulla macchina da scrivere. Naturalmente all'epoca non c'erano i computer. Gian Giacomo Schiavi firma il commento, ve lo leggo, poi ognuno si faccia la sua opinione. Ripeto, nel 2000, quando Montanelli era stato richiamato con direttore Ferruccio De Bortoli al Corriere della Sera a firmare questa stanza di Montanelli in cui rispondeva alle lettere, a una lettera di una ragazza di 18 anni che chiedeva di spiegare ancora una volta questo episodio. Lui, ripeto, a un anno dalla morte, molti anni passati in cui sicuramente aveva potuto ripensare e riflettere su quella vicenda, la racconta con un linguaggio molto crudo, e quella lettera finisce con: se ti ho scandalizzato è colpa tua. Vi invito veramente, per farvi un'idea, se avete voglia, se avete tempo, su questa vicenda, anche appunto a rileggere la risposta che Montanelli diede nel 2000. E Gian Giacomo Schiavi scrive oggi: ai nostri occhi la storia della giovane abissina e del soldato che ne fa la sua sposa bambina per un'usanza vergognosa dell'esercito regio è una storia sbagliata. Ma ci fa vergognare di più chi se la prende con un episodio di 90 anni fa, da inserire nel contesto di un'epoca e di una guerra coloniale, quando ancora oggi in tante parti del mondo tante donne minori, indifese e sole, sono vittime di soprusi inaccettabili, di usurpazioni e violenze tollerate da famiglie e da governi ciechi che ignorano ogni umanità. Quella che Montanelli aveva, secondo Gian Giacomo Schiavi, i suoi imbrattatori non hanno. Poi per chi è appassionato di retroscena, perché abbiamo detto ieri i giornalisti a Villa Panfili per esempio a raccogliere retroscena non potevano entrare, però Annalisa Cuzzocrea, che scrive praticamente solo di politica per La Repubblica, racconta, pagina 15, la svolta di Dibba, naturalmente Alessandro Di Battista, che in questo momento non è parlamentare e non ha neanche incarichi ufficiali all'interno del Movimento 5 Stelle, ma è sicuramente punto di riferimento del Movimento 5 Stelle. Allora, secondo Annalisa Cuzzocrea, la svolta di Dibba, meno Salvini, più Greta e un'intesa con Conte. Un tema internazionale che c'è su alcuni giornali, lo scelgo l'articolo di Repubblica, pagina 23, di Francesca Cafferri, riguarda quello che sta succedendo in Libano, perché sì, il Libano, come la maggior parte dei paesi del mondo, è stato colpito dall'emergenza sanitaria e poi economica e sociale legata alla pandemia di coronavirus, ma c'era anche una situazione preesistente molto grave di paralisi economica, così la finisce Repubblica. Coronavirus e povertà, la doppia crisi fa esplodere il Libano, dove infatti ieri ci sono state molte manifestazioni di piazza. Dal Messaggero vi segnalo un aggiornamento sulla questione della Banca Popolare di Bari e il crack. Qui c'è un colloquio del Messaggero di Rosario Di Mito con il commissario Blandini, che dice: Popolare di Bari, il buco supera 1,1 miliardi. E invece, a proposito della questione dei migranti, perché ieri c'è stato un altro naufragio al largo delle coste meridionali dell'Italia, e una intervista al ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che dice: migranti, ora una svolta dall'Unione Europea. Adesso abbiamo un giugno particolarmente freddo, ma è solo una situazione temporanea, e quindi con l'arrivo dell'estate presumibilmente ricominceranno le partenze, o si intensificheranno le partenze dall'Africa di questi barconi con i migranti. E appunto l'avvenire a pagina 8 dà notizie anche di questa nuova strage. I guardacoste della Libia non sono intervenuti e ci sarebbero altri 15 morti. Poi sul Covid vi segnalo, ultima segnalazione prima della pausa sul traffico, sulla viabilità, una pagina sempre dell'Avvenire, il caso Uruguay. Tutti studiano il segreto dell'Uruguay, contagi ridotti a zero senza lockdown. Qual è stata la strategia? Test di massa porta a porta e campagne di sensibilizzazione. Ci sentiamo tra un attimo dopo gli aggiornamenti sulla viabilità. In primo piano. E rieccoci per ancora qualche segnalazione dalle pagine interne prima di passare ai supplementi della domenica. Il dossier della domenica del Fatto Quotidiano, visto che tra l'altro ieri, come vedremo, c'è stata ci sono stati dei disordini in un carcere vicino a Napoli. Questo è un dossier sulle carceri. L'alta sicurezza è a porte aperte. La lettera agli istituti penitenziari, ci sono 13 strutture in cui vige la cosiddetta custodia aperta, ma soltanto una è autorizzata. La situazione non piace al nuovo DAP, nuovo perché sapete, Francesco Basentini, ex capo del DAP, è stato sostituito da Dino Petraglia, si è dimesso dopo le rivolte nei penitenziari e le scarcerazioni dei boss mafiosi nel periodo dell'emergenza Covid-19. Poi sapete che c'è stata tutta la polemica perché con Nino Di Matteo, che il magistrato che in televisione è andato a raccontare alla trasmissione di Massimo Giletti l'arena, no, non è l'arena, che avrebbe dovuto essere lui, poi all'ultimo momento era stato sostituito come nomina da Francesco Basentini, che poi si è dimesso, ma i problemi restano. E ieri, tra l'altro, naturalmente c'è stato l'ennesimo appello al ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che però non ha chiamato le vittime, gli agenti rimasti feriti in queste sommosse a Santa Maria Capua Vetere, ma resta il nodo appunto di queste carceri con poca sicurezza sia per i detenuti che per gli agenti penitenziari. E il giornale racconta appunto, pagina 18, Santa Maria Capua Vetere, il carcere è fuori controllo, rivolta sedata con la forza. E vi segnalo poi dal giornale, che sapete alla domenica ha due pagine dedicate agli animali, non soltanto gli animali da compagnia. Allora, la prima notizia interessante, che dimostra ancora una volta quanto sia sviluppato l'olfatto del cane e quanto i cani siano disposti in un certo senso a metterlo anche al servizio degli esseri umani: addestrato, il cane fiuta gli ammalati di Covid-19. Ci sono già tante malattie, tra cui alcune forme di cancro, che appunto i cani sono in grado di fiutare. E poi, a proposito invece di animali domestici, piante, acqua, compagnia, come prendersi cura del longevo pesce rosso. Vi ricordo che i pesci rossi sono in assoluto il pet più diffuso in Italia. Ultima segnalazione, sempre sul caos nelle carceri, se ne occupa anche il Manifesto: detenuti barricati, agenti in rivolta, i reclusi denunciano è un inferno, sono appunto 8 le guardie rimaste ferite ieri. E poi, a proposito di paesi colpiti dal coronavirus di cui si parla poco, sempre il Manifesto, pagina 7, emergenza civili nel Sahel per la guerra dei tanti eserciti, violenze in aumento dopo l'uccisione del capo jihadista Drukal, e naturalmente c'è anche su tutto questo l'emergenza sanitaria. Ma passiamo ai supplementi della domenica. Come vi dicevo, cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Cuore e Occhi. La citazione sono 3 righe da Khalil Gibran: la bellezza risplende nel cuore di colui che a essa aspira più che negli occhi di colui che la vede. Era il 1926, scrive Gianfranco Ravasi, ed egli pubblicava negli Stati Uniti il saggio Sabbia e schiuma. L'autore era un emigrato libanese, trasferitosi dalla sua patria a 12 anni in un orizzonte così diverso socialmente e culturalmente. Si trattava di Khalil Gibran, lo scrittore che diverrà famoso col suo Profeta, pubblicato 3 anni prima nel 1923, un testo ricco di intuizioni e simboli folgoranti, ma anche di una buona dose di enfasi e retorica. Abbiamo scelto di ricorrere invece al saggio sopracitato, selezionando un'affermazione suggestiva riguardante la bellezza. È anch'essa una realtà che corre il rischio di essere abusata dagli stereotipi. Bisognerebbe per un po', anche ai predicatori, proibire l'uso del celebre asserto dostoevskiano sulla bellezza che salva il mondo. Gibran invece ci ammonisce su una verità forse scontata, ma non sempre considerata. La bellezza autentica non si ferma all'apparenza, cioè alla pelle e alle forme levigate. È un'armonia interiore che può sposarsi, non necessariamente, con l'esteriorità. È una sorta di musica interiore che si scopre col cuore più che con gli occhi. Ma la copertina vera e propria è il quarto di una serie di articoli dedicati ai motori della vita. I precedenti sono stati dedicati a cuore, polmoni e fegato, e questa settimana è il sangue. Attenzione, il sangue non è acqua, il titolo dell'articolo di Vittorio Ringiardi. Il rosso fluido che scorre nelle vene irrora tutta la nostra cultura, scienza, religione, simbologia, letteratura e cinema. Sempre dal Domenicale vi segnalo la recensione di Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, a questo titolo di Paul Collier, Il futuro del capitalismo, fronteggiare le nuove ansie, appena pubblicato da La Terza. L'etica salva il capitalismo, e l'autore è un economista di Oxford. E poi un'altra lunga recensione, questa volta un titolo di Shane O'Mara pubblicato da Einaudi, Camminare può cambiarci la vita, tra l'altro illustrato da una bellissima, secondo me, scultura di Alberto Giacometti che si intitola proprio L'uomo che cammina verso se stesso, è una di quelle figure filiformi dello scrittore svizzero. Il titolo della recensione: metti in moto gambe e cervello, la scienza del camminare, l'essere bipedi nei modi che oggi ci sembrano scontati ha trasformato la nostra specie, scontati appunto come il camminare, aiutando la creatività e migliorando la qualità della vita. E vi segnalo poi un'altra recensione, in questo caso invece di un libro pubblicato da 66 and the Second, una casa editrice di Roma. È l'autore Giuseppe Pastore, il titolo è La squadra che sogna, e Maria Luisa Colledani. Questo libro riguarda la nazionale azzurra di pallavolo, 7 anni di schiacciate e vittorie, appunto il racconto di questo sport dove sicuramente le nazionali femminili, oltre a quelle maschili, hanno avuto tanti successi. La lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, copertina come sempre affidata a un artista, questa settimana Nebojša Despotović. E poi vi segnalo, sapete che da qualche tempo la lettura ha un approfondimento che è fatto nelle prime 6-7 pagine del giornale, questa settimana è tutto dedicato a Vittorio Gassman, che morì il 29 giugno di 20 anni fa, e quindi un racconto del personaggio Vittorio Gassman, il mat autore di Francesco Piccolo, e poi tanti ricordi anche familiari, per esempio di uno dei figli, Alessandro Gassman, che appunto racconta questa figura sicuramente di padre, come si dice a volte, ingombrante. E poi un approfondimento veramente incredibile ma vero di Chiara Lalli, intitolato Il populismo sanitario: chi sperava che Covid-19 placasse i Novax si illudeva. Al contrario, l'incertezza provocata dalla pandemia, anche per via di alcune affermazioni contraddittorie e confuse degli scienziati, ha rilanciato paranoie complottiste spesso fomentate da astuti ciarlatani. Personaggi pronti a presentarsi come eroi in lotta contro il potere per spacciare cure prodigiose ai pazienti disorientati e impauriti. Robinson, il supplemento culturale della Repubblica che esce al sabato ma poi resta in edicola tutta la settimana, è dedicato alle lauree ai tempi del Covid, il laureato online. Le università restano chiuse, si fa lezione a distanza, ma bisogna saperlo fare perché lo studio resta un diritto. E vi segnalo l'ultimissima segnalazione da Robinson, della serie delle belle interviste Straparlando, illustrate dai disegni di Riccardo Mannelli, questa settimana a Monsignor Vincenzo Paglia. Si può litigare con Dio, questo è il titolo. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.